Oh, cari amici, vi auguro di emozionarvi ancora dopo 50 anni che ascoltate il Vangelo delle parole del Vangelo. Così può capitare anche per la lettera di Giacomo che abbiamo sentito nel capitolo 3, i primi 12 versetti. Giacomo è una lettera così concreta, così quotidiana, che incanta tutti. Per esempio, in questi 12 versetti parla della lingua, ma ne parla in una maniera così facile e nello stesso tempo che ti mette in difficoltà, che tu capisci perché Papa Francesco ne parla spesso. Non so, io spero che siate di quelli che non critichiate Papa Francesco sentendo gli altri maestri che lo criticano. Leggetelo, leggetelo voi. Se l'avete ascoltato durante la pandemia nella messa alle 7 del mattino, ma quanta gente è rimasta incantata. Leggete quello che dice. E lui continua a ripetere, il chiacchiericcio, e ascoltate cosa dice Giacomo. Se uno non pecca nel parlare, costui è un uomo perfetto, capace di tenere a freno tutto se stesso, tutta la sua persona. È vero, eh? È verissimo. Una persona matura raramente è uno che usa il trombone. Una persona matura è una persona che pesa le parole, è una persona saggia. E porto un esempio. Se tu tieni a freno la lingua, sei come se guidi un cavallo. Io non so se voi avete mai guidato un cavallo, a me è capitato. Mio zio aveva un cavallo. E quando andava in campagna qualche volta mi diceva Ambrogino, vieni qui vicino a me, va. E mi lasciava in mano le redini, lui era seduto accanto a me. E quando io cercavo di tirarlo un po', no, non devi tirare le redini al cavallo, se no gli fai male alla bocca. E neanche però devi lasciargliele buttate sul dorso del cavallo. Le redini devi sempre tenerle tu, perché se passasse un motorino e il cavallo si imbizzarrisce, tu devi tirare le redini e il cavallo sente che tu hai il possesso della situazione. Se invece tu butti le redini così, il cavallo ti porta nel fosso. Mamma mia, quanto potremmo applicare questo ai nostri ragazzi, ai nostri giovani. Tirare troppo non va bene, ma lasciarli liberi di fare quello che vogliono, vanno nel fosso. Il morso in bocca ai cavalli, tu lo tocchi appena appena a destra, la briglia di destra, il cavallo sa che deve girare a destra, appena appena a sinistra, il cavallo va, mamma mia. E dice così è la nostra lingua e porta anche degli altri esempi. Guardate, ci sono certe navi che hanno un tonnellaggio enorme, ma sono tutte guidate dal timone, eh? E se guardate il timone in proporzione alla barca, è niente. Sulle grandi navi è lungo metri e metri, ma in proporzione al tonnellaggio è niente, eppure porta la nave dove vuole il pilota. Così anche la lingua. È una cosa piccolina, ma ti porta dove vuole lei, eh? E poi dice, è come un fuoco. Può essere un piccolo fuoco, ma è un fuoco tremendo. Dice, viene dalla Geenna. La Geenna è l'inferno. Aiuto. La lingua, ma si dice, certamente, c'è una lingua infernale quello lì. Amici. Ma poi continua e dice, tu uomo hai domato tutto il mondo, tutti gli animali, rettili, uccelli, bestie, esseri marini, ma la lingua non la doma nessuno. È piena, e ripete, di veleno mortale. Con essa benediciamo e con essa malediciamo. Non sia mai che malediciamo, io l'ho già detto tante volte, maledire è una cosa che viene dal demonio, benedire viene da Dio. Ecco, non credo che in questa Santa Messa noi dovremmo proprio chiedere questa grazia al Signore. Signore, magari lo so che impiegherai tanti anni a cambiare il mio carattere, però fin da adesso, da sempre, ti chiedo, cambia il mio carattere, che soprattutto si manifesta con gli atteggiamenti e con le parole della lingua, no? E vi do due medicine. Bisogna essere sempre molto concreti, eh? Poiché capita che senza accorgerci ci lasciamo andare a criticare gli altri, perché se fate caso il 100% di quello che diciamo sugli altri è una critica. Non temo smentite. Provate a controllare. Allora se ci capita, lo dico perché capita anche a me, e ho trovato utile questa medicina. Quando mi accorgo, mi fermo e dico, Madonna, come riparazione, come antiveleno, dico un'Ave Maria a te. Perché io ho tolto magari un po' di onore a questa persona, senza accorgermi, gliela restituisco con un'Ave Maria. Mi è capitato, sapete, in piazza della chiesa, non qui, di vedere della gente che parlava tra di loro, mi sono accorto che stavano criticando, mi sono fermato alle spalle e ho detto, dai che diciamo un'Ave Maria. Oh Signore, ma adesso non si può più neanche dire niente. Critica tuo figlio? Critica tuo figlio? Ah no, quello no. Al massimo si critica il marito, ma i propri figli sempre bene. Allora diciamo un'Ave Maria quando ci capita che ci scappa il cavallo. Diciamo un'Ave Maria. E poi la seconda medicina che vi do è questa. Impariamo a lodare. Impariamo a lodare, ma le lodi non ci vengono fuori, ma è sottinteso. Già, perché le critiche invece non sono mai sottintese? Che bello se in casa nostra imparassimo a lodarci di più. Brava, guarda. Complimenti al figlio, sei stato in gamba, alla nonna. Quante volte la gente gioisce di niente. Io che sono molto attento a tutto, mi accorgo persino quando una donna è andata dal parrucchiere e le faccio i complimenti. E lei resta stupita, dice, non si accorge mio marito e si accorge lei. Impariamo a fare un po' di complimenti, amici. Bravo, brava. Sei stato in gamba. Queste due medicine sono due potenti antiveleno contro il veleno della lingua.